Ci sono molte difficoltà tecnologiche, non è soltanto prendo un display e lo metto su una cappa. Innanzitutto l'ambiente cappa è un ambiente difficile, c'è Ma alta infatti, scusi se la temperatura, interrompo umidità. subito, ma non si appanna? Cioè, No, cos'è che l'ho avete messo in modo fatto? che sia coperta, l'aspirazione è sotto, il video viene protetto dalla cappa che è fatta a T e quindi è studiata proprio la forma della cappa per poter proteggere il video. Il video è testato in maniera molto severa, tutta la parte di elettronica, per resistere all'ambiente della cappa. Quindi questo era uno dei problemi che abbiamo dovuto superare, ci abbiamo messo il nostro tempo. No, perché quando a Natale avevamo scherzato su questa idea della cappa multimediale, a me era venuto in mente i primi rasoi della Philips. C'è stato un momento in cui la Philips ha inventato degli OLED, dei piccoli schermini sul rasoio, no? Cioè, c'è stato un momento in cui c'è stata la Il moltiplicazione degli video, schermi. mettere il video ovunque, Sì, insomma. esatto. Ho Cioè, capito. che poi, tra l'altro, cioè, questa moltiplicazione degli schermi è uno dei trend più fiorenti dell'elettronica di consumo. Ormai li mettono un po' ovunque. Sulla cappa, oggettivamente, è la prima volta. Ma Anche fin per. qui il video. Ah, scusa se ti ho interrotto, No, però. tra l'altro, anche nella macchina ormai, cioè, è uno standard il piccolo Ah, monitor certo, dietro nell'automobile vuoi dire. nell'automobile. Certo, Sì, sì. sì. Ma fin qui il video, ma poi c'è la webcam, c'è la connessione internet, c'è la presa USB, cioè quindi che cosa ci dobbiamo fare insomma in cucina? Le sentiamo, Socci, che cosa ci fa lei in cucina? In cucina uno cucina, no? Innanzitutto, quindi E quindi legge la ricetta, tanto per cominciare, dunque ci o sono la delle ricette vede? precaricate nella cappa, oppure attraverso la connessione internet si va poi nel mondo aperto di internet e quindi si può accedere a tutti i vari siti dove si possono scaricare o Ma leggere c'è le qualche ricette. appassionato che chiede, è multitouch lo schermo, cioè lo tocco con le dita?